nessun che resisterà. Se ti senti stanco, prendi il Pisco Sound. Prima del tuo pranzo, bevi il Pisco Sound. Alle 4:30, mordi il Pisco Sound. Il Sound, oh bello. Non andare a letto, balla il Pisco Sound. Se il pigiama è stretto, vesti il Pisco Sound. Sogno nel cassetto, ergo il Pisco Sound. Il Sound. All night long. Sound people.